com'è triste mardì. Triste soprattutto perché ci sei tu. Com'è triste mardì. Come il povero Aznavour, che secondo me a forza di evocarlo così portiamo anche un po' sfiga. Ma non è vero, gli allunghiamo la vita, sai, si dice così, no? Poi invece... Speriamo solo, speriamo solo. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Credo asilo. Vabbè, dai, ma il martedì è così, eh. Tu già sei triste per Tito, poi siamo al giorno veramente infatti quello più buio, più lontano dal venerdì. No, vabbè, dai, allora, alleggeriscimelo sì, tu. Lo alleggerisco con questa Te lo alleggerisco con questa interessante novità. Tutte le strade portano a Roma, si diceva una volta. Adesso invece sembra che tutti i motori di ricerca portino a Forum al femminile. Ma cosa stai... Ma se tu qualsiasi parola chiave metti nella barra delle ricerche di Google o di Panguso, tutto quello che vuoi, tra i primi risultati c'è sempre Forum al femminile. Allora, fammi provare con smartphone. Mettiamo fusione... Termo... No, no, ma vedi che mette, suggerisce delle parole. Fusione, Juventus. Ma come fusione? Juventus? Termonucleare. Dai, fusione, termonucleare, su Google, vedi? Oh, hai visto? Ma è incredibile. Non è incredibile, è proprio così. Ho anche fatto una breve indagine tra amici e tutti mi hanno detto che anche a loro succede la stessa cosa. Ah, il bello è che nessuno mai clicca su quei risultati di forma femminile. Scusa, ma perché esce sempre tra i primi? Non lo so, i casi sono due K. O hanno craccato il sistema. Figurati. Oppure hanno trattato davvero tutto lo scibile umano dall'A alla Z, da Andromeda a Zoroastro, capito? Sì, ho capito. Ma cos'è Forum al femminile? Ma nessuno lo sa, perché nessuno ha mai digitato alfemminile.com e nessuno ha mai visto la home tutta rosa in vista di quel sito. È solo una fastidiosa ricorrenza durante le ricerche. Ma capito? Sai perché nessuno? Perché noi siamo maschietti. Non siamo maschietti. Le nostre amiche femminucce sono continuamente su Forum al femminile, non fanno altro. Quindi cosa aspetta Facebook a comprarsi Forum al femminile? Appena comprato Instagram? Secondo me è molto più facile che Forum al femminile si compri Facebook, Zuckerberg e tutta la baracca. Che Zuckerberg, sta pronuncia tedesca, è Zuckerberg. No, quella è la Sachertorte. Qui all'asilo non parliamo mai abbastanza del vero, unico, adulto, bambino, pazzo che circola in Europa in questo momento. Mm. Forse perché fa parlare di sé già abbastanza a tutti gli altri addetti ai lavori. Sto parlando di Mario Balotelli. Ecco, che ha sfasciato la macchina, ma non era colpa sua. Per una volta in effetti era dalla parte della ragione, ma per quest'unica volta ci sono decine e decine di episodi in cui Super Mario ha avuto torto marcio. Purtroppo. Infatti il suo allenatore Mancini ha già detto che da qui alla fine del campionato non giocherà mai più e che a fine stagione verrà ceduto. Oh, dovrebbe comprarlo la Roma, scusa, perché la Roma è la squadra ufficiale di Chiedo Bravo, Asilo, capo, no? Mi fa piacere. No, fa piacere cosa, insomma. Che tu parli di ma questi non so argomenti. Niente, me le dici tu queste cose qua che devo dire. Allora, quello che avevo in mente io era di promuovere una specie di campagna tesa a convincere i dirigenti americani della Magica Roma a comprare Balotelli. Balotelli! Perché sarebbe la ciliegina sulla torta. Che ciliegina? Semmai un marron glacé. Balotelli! Balotelli is a striker with the class. Poi dopo tutto non si capisce più niente. Sembra una canzone dei Clash, in effetti. Chora, choi, choi. E quindi qui cosa dobbiamo fare, Drago? Sto marron glacé. Finisce così? Sì, col marron glacé tutto quanto. Ma ora ricordiamo i nostri concorsi in corso. No, i concorsi in corso suona male, scusa. I concorsi attualmente in corso. Insomma, abbiamo due concorsi in corso qui a Chiedo Asilo. In corso. Uno riguarda i videi. I videi, mi raccomando, nella fattispecie vi chiediamo di realizzare dei videi delle canzoni del bambino Alberto commentando il testo, Drago, e qui sta l'idea geniale, con immagini didascaliche, ma didascaliche in modo imbarazzante, Il secondo concorso in corso, invece, riguarda la scrittura, e cioè dovete scrivere una scenetta con i personaggi di Chiedo Asilo, bambino Alberto, Aldo Ioris, Caposca, rispondi tu, Pinello Afono, e noi metteremo in scena quella che ci sembra meglio scritta, con più idee radiofoniche. Il titolo della scenetta da scrivere era ed è Una brutta figura, e la parola chiave da usare sono mamma, ascella pezzata e senso di colpa. Scusa Drago, è tua mamma? Sì, pronto? Sì, mamma. Sì, no, l'ascella, no. Sì, ho capito, ho l'ascella pezzata, è vero. Ho capito, lo so, ti sto facendo fare brutta figura. Non farmi sentire in colpa sempre, ogni volta, mamma. Ecco, questo era un ottimo esempio di come costruire una scenetta brillante e divertente con le parole mamma, ascella pezzata e senso di colpa, anche se la seconda cambia sempre. Lo so, è così, non com'è importa. L'importante è che si parli di brutta figura, lo so, l'altra volta era un'altra cosa. Quindi fatevi venire in mente brutte figure memorabili e pubblicate senza vergogna i vostri copioni sulla pagina Facebook di Chiedo Asilo. Che se poi il vostro script fa schifo, allora avrete fatto voi una brutta figura. No, che poi nessuno poi si osa. Bravo, infantilismo, no? Buttare lì le cose, vabbè. Fare un po' diversi, e questa è la chiave della radio infantile. Fare delle brutte figure. Cioè, Chomsky alla fine voleva che noi facessimo questo programma. Vabbè, lui dai, non lo salutiamo sapeva. Chomsky, allora, salutiamolo, dai. Sì, che sicuramente ci sta ascoltando. Ciao Chomsky! Elections have for a long time been pretty much public relations extravaganza. Only marginally deal with issues. They mostly show they're run by the public relations industry. It has a goal. Advertisers, for one thing, are interested in making money. E ora, bambini, e tutti a casa! Quante macchine! Che palle! Vabbè, perché sono poche, secondo me. Ma non te, è guarda. Una novità, il traffico è traffico. Traffico! Siamo in una grande città e quindi c'è traffico, non è difficile da capire. Vabbè che tu vieni dalla campagna e forse quelli come te fa sempre un po' così... gli fa sempre un po' strano vedere tante macchine tutte insieme. Poi quando vedo anche il treno, no? Cioè, lì, vedo il treno. Vabbè, dai. Si vede che la pubblicità delle macchine in TV funziona. Ti devo portare le perline e l'acqua dei fuochi. I collan anche. Guarda quante collan, macchine. I collan, gli indiani mica gli mettevo i collan, dai. Comunque si capisce che il mercato è in crisi, Drago. Dalla quantità di spot di automobili che passano in TV. E sono tutti basati, no? Hai notato? Sono tutti basati sul concetto di rompere gli schemi, forzare gli eventi, seguire l'istinto. Cioè, giuro che non riesco a capire. Wir leben Autos e poi rompere gli schemi, forzare gli eventi, seguire l'istinto. Ma cosa c'entra tutto questo con comprare una macchina? Chiedilo al tuo amico Marchionne. Ma lui non fa quel tipo di spot. Lui è diverso. Lui è diverso. Pensaci un po'. Lui ha chiamato Chiambretti per la Panda per via delle dimensioni. E Jennifer Lopez per quell'altra macchina che aveva il culo, che era un po' grossa dietro, ha chiamato Jennifer Lopez. Sì, Drago, però lui sceglie i testimoni alla seconda della macchina da pubblicizzare. Ma attenzione, è cosa? Perché lui guarda che è molto raffinato, capito? È uno che lui rompe gli schemi, lui piega gli eventi, lui segue l'istinto, altro che... E quindi è lui il target ideale per le pubblicità delle macchine tipo Wir leben Autos. Peccato che lui non comprerà mai una macchina Wir leben Autos, perché lui fa... Da lui potremmo anche aspettarci quello, insomma. Non si sa mai abbassare la guardia con lui, perché lui è sempre pronto a stupire. Sì, comunque è vero che il concetto di fondo degli spot di certe auto è quello di tornare bambini. Giusto. Gettare via le regole, ribellarsi. Però è anche vero che uno pensa, no? Ma per ribellarmi devo comprarmi una macchina da 60.000 euro? Ma com'è che funziona? Cioè, per fare una pazzia che mi cambia la vita faccio un mutuo di 36 mesi per pagare 60.000 euro? Certo che è una pazzia che mi cambia la vita. Non ho un centesimo, ma come le pago le rate? Sarà questo il vero messaggio? Sai che non ci avevo mai pensato. Però devo ammettere che forse i diabolici coppi che scrivono queste scemenze sono raffinati e alludono, lasciano intendere. Hanno un approccio metanarrativo all'argomento, capito? Ma quale meta, quale narrativo? Ha cominciato una marca con sta menata del... Didi no, ribellati, spacca tutto, comprati una macchina da 60.000 euro... E poi dopo tutte le altre hanno copiato dietro, capito come? I copi sono copioni, lo dice la parola stessa. Vabbè, ma resta un mistero il legame tra la ribellione e la macchina da 60.000 euro. Sì, ma rassegnati, non è che tutti i misteri abbiano una soluzione. Giusto. Certe cose non basta andare su Google per capirle. Tanto su Google poi c'è sempre forum al femminile. (Ride) Ce l'ho la falana! Ma cos'è ce l'ho la falana? Torniamo domani, 16.45, chiedo asilo dall'asilo, lo so. Di farci suggerire dagli ascoltatori delle proposizioni che avessero la stessa metrica di torniamo domani! Quindi la prima, forse la più famosa, era ce l'ho la falana! Quindi ce l'ho la falana alle 16.45. Ma ancora viva?